Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Anni fa, per alcuni giorni, è stato il re di Torino, dell'Italia, di Olimpia. Erano i giorni dei giochi olimpici invernali di Torino 2006, come ci ricorda l'inufficiale di quell'Olimpiade. L'Italia, oltre che del curling, si innamorava del pattinaggio di velocità, grazie alle straordinarie imprese di un 25enne poliziotto di Roana sugli altopiani di Asiago, che sulla magica pista, poi dismessa, dell'Oval, seppe conquistare due ori e un bronzo. Ed è proprio con questo campione, oggi nello staff tecnico della Nazionale Azzurra, che vogliamo rivivere quei giorni, quelle emozioni. Enrico Fabris, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera, ciao a tutti. Allora Enrico, sembra ieri, eppure sono passati 10 anni da quell'Olimpiadi, da quelle gioie. Non sembra sia passati 10 anni. Se analizzo nel dettaglio tutto ciò che è successo, forse sì, mi rendo conto che è passato tanto tempo, però appena penso invece ai ricordi stessi dell'Olimpiade, sembra veramente ieri, che sono sempre vivi dentro di me. Ecco, avevi avuto alla vigilia dei giochi la sensazione che avresti potuto compiere qualcosa di davvero straordinario? Beh, la sensazione, diciamo, il presentimento che qualcosa di stesse succedendo ce l'avevo, anche perché la tensione era alta. Era già di 2 stagioni che arrivavo sul podio in Coppa del Mondo, i campionati mondiali, solo che la gente non lo sapeva, quindi lo sapevo solo io quello che potevo fare, per cui l'ansia e l'adrenalina c'era tutta e non ho fatto altro che trasmetterlo e farlo capire un po' a tutti dopo i risultati. Oro nella prova in seguimento a squadre, poi individuale sui 1500 metri, ma la prima medaglia fu un bronzo pesantissimo e storico sui 5000 metri. Ecco Enrico, ti faccio una piccola sorpresa facendoti sentire le tue dichiarazioni proprio a Radio 24 subito dopo quel podio. Ma sì, è stata una gara incredibile e fino adesso non sono mai riuscito a fare una gara in modo tale, e nel senso da incrementare in maniera così significativa nel finale. Penso che se riuscito a far questo, considerando, rendendomi, essendo consapevole durante la gara che mi stavo giocando il bronzo, perché eravamo tutti molto attaccati, sapevo soprattutto che gli altri pattinatori avevano molto rallentato nel finale. Io mi sentivo abbastanza energia dentro di me per poter incrementare la velocità e riuscire a rubare al terzo provvisorio la medaglia di bronzo, e ci sono riuscito. Confessacelo, forse fu quella, Enrico, la medaglia più bella? Sì, il bronzo, che per assurdo è la medaglia meno ricordata, meno conosciuta dalla gente, ma che per me vale tantissimo, perché è stata la prima medaglia per l'Italia a quelle Olimpiadi, ha fatto conoscere a tutti, come hai appena detto, il mio sport, il pattinaggio. Ma soprattutto per me ha avuto un valore indispensabile per quell'Olimpiade, perché mi ha un po' fatto sciogliere l'ansia, la tensione che avevo alla vigilia dei giochi, che era tantissima, c'erano tante aspettative, poi l'Olimpiade fatta in casa, non dovevo sbagliare. E infatti è stata una gara sofferta, perché ero quinto e quarto fino a poco prima degli ultimi 2 giri, e sono riuscito a guantare il bronzo solamente all'ultimo giro con una rimonta veramente tosta, e ho messo più del 100%, e per cui è la gara che mi ha dato in assoluto più soddisfazione. Venne poi il successo, di certo il più inatteso, nell'inseguimento a squadre insieme ad Anesi, San Fratello e Dona Grandi. Vittoria di squadra che commentasti così, al microfono, mi viene da dire, di un cronista evidentemente allora ancora inesperto di registrazioni audio in buona qualità. Siamo riusciti a dare valore al nostro sport a livello di squadra, non a livello di individuo. E questa è una cosa bellissima all'Olimpiade, perché all'Olimpiade c'è la rappresentanza italiana, e quando una medaglia viene vinta come Italia è una cosa diversa, una cosa più di gruppo che ci rende più uniti ancora. Una soddisfazione speciale, vincere tutti insieme, vero Enrico? Sì, infatti è una delle più grandi soddisfazioni che sono riuscito a togliermi a quelle Olimpiade, è che oltre ad aver conquistato, fatto delle imprese per me stesso, individuali, sono riuscito anche a, come hai detto te, a trascinare la squadra in un successo a un successo collettivo, quindi a poter condividere le gioie che è il gradino più alto del podio anche con altri, e in particolare con i miei compagni di squadra che, con i quali ho faticato e mi sono allenato per tutti gli anni che precedettero le Olimpiadi. Poi è la gioia individuale più grande, come ricordavamo, per il gran finale, l'oro sui 1500 metri, bruciando le stelle norvegesi ed olandesi. Nel dopogara le tue parole cariche di orgoglio e soddisfazione, ma che guardavano anche, vale la pena sottolinearlo, al futuro del pattinaggio di velocità italiano. Dopo 5000 metri gara squadre, tutti mi dicevano, ma la tua gara deve ancora arrivare, ma i 1500 sono a tua distanza. E io rispondevo loro, sì, però intanto ho già una medaglia d'oro, una medaglia di bronzo, quindi io mi accontenterei anche così. Poi ho voluto accontentare anche tutti gli altri e ce l'ho fatta. In Olanda è lo sport nazionale, da noi è l'ultima ruota del carro e adesso sono convinto e spero che le cose cambieranno. E io ce l'ho messa tutta, adesso deve fare qualcosa anche gli altri. Ecco, aspettative solo parzialmente mantenute, quelle relative a nuove strutture e magari anche a un maggior numero di praticanti. E anche tu, nei giochi successivi a Vancouver nel 2010, non riuscisti, ahi noi, a ripeterti. Sì, i risultati non arrivarono alle Olimpiadi successive. Questo non vuol dire che non fossi forte, anzi, probabilmente ero fisicamente più forte di quanto non fossi alle Olimpiadi di Torino, anche perché con 4 anni di esperienza in più. Però probabilmente la soffersi dal punto di vista più psicologico, la pressione era grande, per cui non sono riuscito a incanalare le energie in maniera positiva come in un circolo virtuoso, come ho fatto a Torino, ma in un circolo vizioso non sono mai riuscito a metterle nel posto giusto e quindi le cose sono andate una sempre peggio ogni giorno, a differenza di 4 anni prima. Però il peso delle medaglie nel quadriennio comunque ha portato molto, perché sono vissuto di rendita dal punto di vista proprio della convinzione, della determinazione per gli anni a seguire dopo i giochi in Italia. Voglio esserci anch'io e fare quello che so fare, voglio vivere anch'io e dare una mano per andare più là. Ecco Enrico, a 10 anni da quei trionfi, invece, qual è l'eredità che è rimasta per te e secondo te per tutto lo sport italiano? Ma per me rimane sicuramente l'orgoglio di quelle gesta, che è giusto che, nonostante magari abbia cercato di riprodurre alle Olimpiadi successive, preferisco lasciarle lì e che rimangano a 10 anni fa, in quel momento particolare della mia vita, perché è giusto che rimangano là. Per quanto riguarda in generale, spero di aver lasciato un modello come atleta per il mondo del pattinaggio in Italia soprattutto. Io adesso, facendo allenatore, cerco di trasmettere il più possibile questo agli atleti che vedo quotidianamente. Poi però ho lasciato anche qualcosa che si può toccare con mano, ossia un bellissimo impianto da ghiaccio a Roana, mio paese, che è stato fatto anche grazie ai miei risultati, e anche una pista da rotelle sempre al solito piano di Asiago. Per cui qualcosa di grande è rimasto comunque, oltre a tutte le emozioni nel mio cuore che rimarranno sempre lì. E un nuovo Enrico Fabris? Già lo vedi in arrivo? Ma no, un nuovo Fabris non c'è, perché non voglio che ci sia. Preferisco che ci sia un nuovo atleta con un altro nome che magari vada più forte di quello che è andato Fabris. E la nostra filosofia è sempre quella dei pochi ma buoni. Ci sono un po' di giovani promesse che hanno un sacco di voglia di far bene, un sacco di passione per il pattinaggio e anche tanta umiltà, che è quella che io cerco sempre di trasmettere ai miei atleti. Enrico Fabris, allora in bocca al lupo per i tuoi prossimi traguardi e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, è stato un piacere mio. Ora facciamo una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Salgono i motori in partenza. Il terzetto di testa ha già guadagnato qualcosina, Senna sta allungando su Mansell che è scallonato da Alboreto, mentre vedete che anche l'Alfa Romeo, in particolare con Cheever, se non vado errato, si è messa bene del gruppo di testa, eccolo, lo vedete, Civer tallonato da De Angelis, quindi abbiamo Bussen, poi Rosberg e via via il gruppo ancora vicinissimo e transitato. Emozioni, sgommate, accelerazioni da un Gran Premio di Monaco del 1985, con l'Alfa Romeo, come avete sentito, ancora protagonista del mondiale di Formula 1. Ebbene, sarebbe stata quella l'ultima stagione dell'Alfa nel Circus. Ma il ritorno, se non imminente, sembra ora possibile, almeno a sentire quanto dichiarato al recente Salone dell'Auto di Ginevra da Sergio Marchionne, presidente della Ferrari e amministratore delegato FCA. Ipotesi credibile o solo teorica? E che spazio potrebbe avere nella Formula 1 di oggi la nuova Alfa Romeo? Tra attualità e storia ne parliamo con il nostro ospite, il collega e amico della Gazzetta dello Sport che segue da vicino la Formula 1, Luigi Perna. Benvenuto Luigi a Olimpia, la città dello sport. Salve a voi. Allora Luigi, aiutaci subito a capire. Marchionne fa sul serio? Davvero l'Alfa Romeo potrebbe tornare in Formula 1? Beh, è un'ipotesi senza dubbio ambiziosa, almeno quanto grandi sono le ambizioni di Marchionne con la Ferrari. Perché? Perché senza dubbio comporterebbe degli enormi investimenti che andrebbero ad aggiungersi a quelli che già il gruppo fa in Formula 1 con la scuderia più famosa di tutti i tempi, comporterebbe anche un investimento tecnologico non indifferente. Tant'è vero che a farci caso Marchionne ha un po' cambiato i termini della sua idea. Prima aveva parlato di un ingresso possibile in Formula 1 dell'Alfa Romeo in cui l'azienda facesse tutto da sola, telaio e motore. Invece a Ginevra ha cambiato un po' direzione dicendo che all'inizio l'Alfa Romeo sarebbe aiutata dalla Ferrari, che quindi fornirebbe il motore, per cui ci sarebbe da realizzare soltanto il telaio. Ciò lascia capire che siamo ancora ad un progetto embrionale, più che altro un'idea, un desiderio di Marchionne, che certo vuole rilanciare il marchio Alfa sui mercati dell'automobile e pensa al marchio Alfa e alla sua storia in Formula 1 e non sola, legata al mondo delle corse. Ma mai si dovesse realizzare questa nuova avventura, quanto verrebbe a costare? Beh, presto detto, ormai i team di vertice in Formula 1 spendono oltre 300 milioni di euro circa soltanto per svolgere la stagione. I team minori viaggiano con budget nell'ordine dei 100-150 milioni di euro e per la maggior parte sono quasi tutti sostenuti da un costruttore che fornisce il motore. È il caso della Toro Rosso, che tra l'altro quest'anno si appoggia proprio alla Ferrari come fornitore. È il caso della stessa Williams, che è una vettura ben più competitiva e si appoggia alla Mercedes, per cui anche con un sostegno della Ferrari per quanto riguarda la fornitura dei motori sarebbe comunque un impegno economico rilevante. Insomma, servono sempre un bel po' di soldi. Proprio quei soldi che vennero a mancare proprio in quel lontano 1985, quando l'ultima sfida mondiale dell'Alfa Romeo si interruppe nel bel mezzo del campionato del mondo. E già pochi mesi prima le avvisaglie non erano mancate. Rosso, qui! Attenzione ancora, un attimo di pausa, salgono i motori, partenza! Giancarlo Minardi nell'estate del 1984 stava per lanciare la sua scuderia in Formula 1. La Minardi avrebbe dovuto avere proprio motori Alfa Romeo, ma nel giro di pochi mesi arrivò il clamoroso voltafaccia. Noi siamo partiti nell'avventura Formula 1 perché l'allora presidente Massacesi dell'Alfa Romeo ci aveva promesso i motori per l'85, cosa che purtroppo saltò ancora prima di essere concretizzata al 100%. Facemmo solo delle prove a Misano nel luglio-agosto dell'84 con la macchina che poi diventò Minardi Motori Moderni, e purtroppo la mia avventura è finita lì, con Alfa Romeo è finita lì. Ormai praticamente era nella fase calante e successivamente dopo decisero di ritirarsi definitivamente dalla Formula 1. Una scuderia, l'Alfa Romeo di allora, che ben presto si disgregò tra polemiche e pessimi risultati, ricorda Minardi. Purtroppo era un po' allo sbando in quel momento lì, c'erano dei problemi tecnici, probabilmente non si è voluto pigliare il biscione per la coda e quindi poi dopo è andato in caduta libera, ecco, l'uscita di Chiti, insomma c'è stato tutto. Devo essere sincero che dopo la rottura del rapporto non è che mi sono preoccupato più di tanto, anche se in pista non stavano facendo bene. Ecco, ecco Luigi Perna. Fu quella l'uscita di scena ingloriosa di un marchio tra i più prestigiosi invece nel mondiale, giusto? ben prima della Formula 1, se vogliamo, perché l'Alfa debutta nelle competizioni all'inizio del Novecento, nel 1911. All'inizio, tra l'altro, il reparto corse era gestito proprio da Enzo Ferrari, quindi c'è un fil rouge che parte da lontano e che unisce le due scuderie, e poi appunto si è affermata con campioni come Tazio Nuvolari, Antonio Ascari, Giuseppe Campari. Ha vinto 6 edizioni di fila della Targa Florio tra il 1930 e il 1935, e poi le prime 2 edizioni del campionato del mondo di Formula 1 nel 1950 e nel 1951 con Nino Farina e con Juan Manuel Fangio. Per cui, voglio dire, la storia dell'Alfa Romeo è legata alle corse, e da questo punto di vista l'ambizione, il sogno, il progetto di Marchionne è fondato. Eppure, vale la pena sottolinearlo, da una costola di quell'ultima Alfa Romeo vedrà la luce la Benetton, scuderia innovativa e vincente. Esattamente, sì, quello era un progetto che in un'epoca appunto dove si affermavano altre marche non aveva più la forza tecnica e anche economica per competere ad altissimo livello. Però appunto da allora poi quello sponsor si affermò con altre vetture, con vetture inglesi e con un campionissimo che allora si affacciava sulla scena della Formula 1, Michael Schumacher, segnando a suo modo un'epoca all'inizio degli anni 90. Ti chiedo, potrebbero essere invece i giovani della Ferrari Academy, ora i piloti dell'Alfa Romeo, nel momento in cui dovesse tornare nella griglia di partenza del campionato del mondo? Ecco, questo sarebbe invece un capitolo interessante, perché un eventuale ingresso della Formula 1 chiaramente creerebbe una prospettiva per i giovani della Ferrari Academy e quindi la possibilità di creare una sorta di vivaio che in questo momento già esiste nelle intenzioni della Ferrari, ma poi non vede una reale, una concreta realizzazione, perché la Ferrari da sempre ha puntato su piloti esperti o comunque campionissimi che possano assicurarle dei risultati immediati, e quindi di fatto ha lasciato spesso parcheggiati o comunque nel limbo anche piloti che ha seguito o che ha coltivato. In questo caso ci sarebbe la possibilità di creare un vero e proprio vivaio, come appunto la Toro Rosso nel caso della Red Bull. E invece, per quella che è la tua esperienza, tra i piloti attuali della Formula 1 chi vedresti bene come prima guida per questa nuova e suggestiva avventura? Io vedrei comunque dei piloti giovani che possano poi in un domani essere messi al volante della Ferrari, perché no? E fra i giovani in questo momento in Formula 1 il più promettente è senz'altro l'olandese Max Verstappen, che ha esordito l'anno scorso e che nonostante abbia appena 18 anni di età ha fatto vedere già delle cose notevolissime. Si tratta di un talento purissimo che si è espresso già dal che già dal kart aveva fatto intuire le sue potenzialità e che in brevissimo, nell'arco di 12 mesi, è arrivato in Formula 1, criticato con lo scetticismo generale che lo circondava, invece ha fatto vedere cose egregie. Staremo a vedere allora cosa accadrà. Intanto Luigi Perna, collega e amico della Gazzetta dello Sport, buon mondiale ormai alle porte, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.